ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, undicesima puntata con il raffreddore. Salve mascotte, dicevo. Undicesima. Sì, dicevo, con il raffreddore. Raffreddore. Lei ha il raffreddore, mascotte? Forse. Io sì, si sente anche dalla voce, sono raffreddata. Io me li dico, ma canto lo stesso. Qua la mascotte non la scalfisce niente, neanche il mal di gola. Ma proprio niente. Perfetto, mascotte, non esageri, per favore. Allora, volevo chiedere una cosa. In questo periodo prenatalizio, mascotte. La vigilia di Natale sta per arrivare. Sì, sta per arrivare la vigilia e sta per arrivare anche il Natale di conseguenza. Sta per arrivare il Natale. Yuhu! Ok, molto bene. In questa gioia natalizia volevo sapere commenti, gossip tra bambini. Sì, gossip trimpa maio. Complimenti per l'inglese, sempre i miei complimenti, veramente anni e anni di corsi di inglese così buttati via. Com'è? The gossip in the crawl in the long strung di lì. We do gossip trimp maya so wosi. Trimp do gossip, maya so, capisco. Si do gossip trimp maya so wosi. Poveretti. Mugas avoi you. Cioè magari i Maneskin volevano dire qualcosa con questa canzone che è stato assolutamente smantellato e distrutto dal testo della nostra mascotte. Molto bene, mascotte, scusi, si calmi, ho bisogno di sapere se ci sono dei commenti, dei gossip, delle novità tra bambini, insomma in questo periodo prenatalizio succedono sempre tante cose tra i bambini, ha qualcosa da raccontarci, insomma, visto che lei è una bambina, ci dica. I miei compagni sono monelli. Vabbè, queste sono cose che capitano nella vita, non solo tra bambini, ci sono un sacco... Un mio compagno mi ruba gli astucci e mi butta giù la sedia mentre gioco fuori. Ah, ok. È monello. Come dicevo, anche fra gli adulti purtroppo ci sono un sacco di monelli, quindi questa non è una cosa solo tra bambini, ma che si ripresenta anche nel mondo degli adulti. Mascotte, si dia una calmata, per cortesia. Tutto dop, questo... Dop, cosa? Dopo, yes. Ma senta, mascotte, tutto questo... Il parmigiano, per... dop. Cosa c'entra il parmigiano dop con i mandarini? Mascotte, si dia una calmata. Che... Amore, cosa mangiamo oggi a pranzo? Mangiamo, che cosa mangiamo? Delle spremute d'arancia. Sì! Yeah, rock and roll. Ci stiamo facendo di agrumi come se non ci fosse un domani. Perché hanno tante vitamine e fanno bene alla salute. Perché io ho il diritto di stare bene e non di essere disgustata, di stare bene. Bene, mascotte, agevoliamo un brano musicale. Cosa vuole ascoltare? Ci dica. Amagasugaya. Lo faccio io il brano. Amagasugaya, amana gagaga, amagasugaya, bigudu gudasha, amagasugaya, dugudu guduga. Nota non è proprio giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanno può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su. Brava, che non ha nessun valore. Se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, su, su, come due note che volano nel cielo. Senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce, sembra un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate mai. Voi non lo sentite questo povero mio cuore che fa bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Brava, brava, brava, brava, brava. Eccoci tornati in studio, Mina. Brava, e questo è un pezzo storico per noi, perché la nostra mascotte quando era piccola la cantava sempre, diceva va va va va, come sono brava, brava, brava, come sono brava, brava, brava, brava. Ah, bene, grazie. Sì, io non sapevo pronunciare R e la B. Ok, però posso dire, facevi anche l'acuto, quello alto, proprio brava, quello lì, quello lì. Sì. Sì, ecco, sono proprio. Tarzan, sono Tarzan. Va bene. Bene, mascotte, in questo clima sempre pre-natalizio, io direi che a questo punto mandiamo il tuo tutorial. Oggi più che mai, visto che sei qua in studio con noi, mandiamo il tutorial della nostra mascotte. Ciao ragazzi, oggi parliamo dei colori. Allora, vi vorrei parlare di questo perché sono andata in questi giorni a studiarmi su questi colori. E sapete che ci sono alcuni colori che vediamo noi ma non esistono. Ad esempio il magenta. Il magenta non esiste. Quindi, scusatemi, ma quando usiamo il magenta? Perché usiamo il magenta? Perché noi lo vediamo e gli altri esseri viventi no? Mi sono posta tutte queste domande, sono andata a studiare e è proprio perché la luce ci fa vedere questo colore che invece gli altri animali non fa vedere, perché hanno meno luce in confronto a noi. Perciò vi consiglio, usate poco magenta, non per fare un insulto a magenta, sicuro, questo... Io non insulto colori, ma meglio che, cioè, non so come spiegarlo. Il magenta è strano. Mi dispiace il magenta insultarti, ma sei strano. Bene, scusi mascotte, di cosa sta parlando? Dei colori. Dei colori? Ma perché ce l'hai col magenta? Perché il magenta lo vediamo solo noi. Ok. E quindi il fatto che lo vediamo solo noi fa sì che sia un colore tutto nostro. In pratica non è un colore esistente per gli altri esseri viventi. Ah, ok, una formica non vede il magenta. No. Ok, ci sono altri colori così che gli altri animali non vedono? Sì. Il verde acqua. Ah, il verde acqua. Grazie mascotte per questo tutorial. Non so perché io sono nei tuoi tutorial. Io non dovrei essere in questo momento con te a parlare del magenta e del verde acqua. Ma sei sbucata dalla cucina. Ma sì, perché effettivamente avevo un po' fame. Sai, a quest'ora ci sta che uno abbia anche fame, voglio dire. Per forza, va bene, grazie mascotte per il tutorial di questa settimana. Ci risentiamo la settimana prossima. Ciao. Allora, siamo qui oggi a LICI 5, Istituto Comprensivo 5 di Bologna, in quartiere Navile, quindi un quartiere importante che lavora molto anche sulle differenze e sull'inclusione, e siamo qui con una delle docenti che ha fortemente voluto questo corso di formazione, ed è un corso di formazione Circle Time e comunicazione efficace. Perché? Perché i docenti del LICI 5 stanno lavorando su un'assemblea dei bambini, che è una cosa molto all'avanguardia al giorno d'oggi, e non tutti gli istituti comprensivi hanno la pazienza di seguire progetti di questo tipo, e quindi siamo qui con la nostra collega insegnante che ci racconta un attimo da dove è nata questa idea, no? Questo percorso importante che dà intanto la parola ai bambini direttamente e poi soprattutto crea un rapporto tra docente e alunno, e che è un rapporto importante, quotidiano, in cui esiste un confronto. Quindi io adesso chiederei, insomma, come è nato questa idea, come è nato questo percorso e questo corso di formazione di cui io in parte mi sto occupando insieme all'associazione Totem Lab e insieme ad altri ragazzi che hanno vissuto percorsi importanti in quartiere e sull'autogestione e sulle assemblee orizzontali. Quindi sono qua anche in prima persona, ma adesso ci tengo a lasciare la parola alla nostra docente. Intanto grazie di essere qui, ciao. Ciao. Allora, sì, hai detto la cosa giusta, è proprio dare la parola ai bambini. Intanto il contesto della scuola che sta appunto nella Bolognina, un contesto molto multietnico, plurilingue, lo chiamiamo noi, in questo plurilingue c'è veramente tantissime lingue, e quindi nella nostra idea è proprio quello di lavorare con moltissimi progetti di cittadinanza. Uno di questi progetti che facciamo ormai da molti anni è le assemblee dei bambini, che l'abbiamo modificato e trasformato nel corso degli anni, e lo facciamo in tutti e tre i plessi delle scuole primarie dell'ICI 5, in continuità anche con la scuola le scuole secondarie di primo grado. Quindi è un bellissimo percorso in cui i bambini imparano alle scuole primarie a stare in circle time, a parlare dei problemi che nascono spontaneamente o anche di temi che di volta in volta mettiamo, temi di cittadinanza naturalmente, quindi diritti, problemi dell'ambiente, feste diciamo internazionali, la festa dell'albero, la giornata della memoria, e sono legate poi anche a uscite nel territorio e costruzioni di percorsi poi di tipo espressivo, come filastrocche, storie, anche dei cartelloni collettivi. Le assemblee, dicevo, sono fatte prima all'interno delle classi, dove si sceglie il tema uguale per tutti, e all'interno di queste assemblee di classe si individuano due bambini che possono essere volontari o scelti dalle maestre, che poi andranno fuori, si riuniranno con due rappresentanti delle altre classi per fare le assemblee plenarie, quindi confrontarsi in qualche maniera e poi tirar fuori, diciamo, un lavoro espressivo. Diventa quindi un vero e proprio percorso didattico e educativo che va all'interno della programmazione vostra. Sì, ormai è strutturato proprio con delle unità, vere e proprie unità di apprendimento. Iniziamo a vederci i referenti dei progetti dei triplessi per lavorarci appunto in continuità anche in verticale con le insegnanti delle scuole secondarie, in maniera tale che i ragazzi possano raggiungere degli obiettivi, no, di formativi. In particolare la competenza che a noi interessa molto è l'assertività, cioè quella capacità di esprimersi e di riuscire a dire fino in fondo quello che loro pensano, ma anche di porsi il problema di poter dire qualcosa che loro pensano. Quest'anno abbiamo pensato proprio di formarci perché è da tanti anni che andiamo avanti, quindi sentivamo proprio il bisogno di avere metodologie un pochino diverse noi rispetto a quello che poi sono i criteri decisionali, scegliamo sempre poi a maggioranza. Quindi ci siamo rivolti all'associazione Totellab, che è sempre stata molto vicina alla nostra scuola. Abbiamo fatto moltissimi progetti di cittadinanza con progetti molto belli, insomma, che i bambini imparino fin da piccoli ad avere rispetto anche di quello che è l'opinione altrui, l'idea altrui, e magari pensare anche che le idee degli altri possano arricchire le nostre e non deve esserci conflitto, insomma, tra le diverse idee. Quindi ci sembra di aver chiamato le persone giuste. La formazione è arrivata al terzo incontro, ne abbiamo anche tre, saranno 12 ore in tutto di formazione, sono presenti i colleghi docenti di tutti i plessi, quindi poi ci lavoreremo per diffondere delle dispense, per diffondere anche diciamo delle modalità con cui poi tenere le assemblee in classe. Ci sembra che sia una cosa molto positiva. Benissimo, allora guarda, intanto io vi ringrazio perché trovare dei docenti e un gruppo che lavora insieme in questo modo non è una cosa semplice, tu lo sai perché meglio di me sei del mestiere, quindi grazie per il lavoro che fate. E diciamo che il valore aggiunto è proprio quello di lavorare sul territorio e quindi andare a conoscere le persone e sapere quello che fanno realmente nel territorio e far capire ai bambini che non far capire, proprio farli vivere le esperienze, no? Perché ormai è così che si viene invogliati magari a fare, a rendersi utili nel territorio per essere attivi. Bene, ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Ci risentiamo prestissimo, magari a fine anno scolastico, per un aggiornamento su questa assemblea dei bambini. Molto volentieri. Grazie, ciao. Ciao. Va bene, mascotte, allora vogliamo agevolare un brano, per cortesia. Ma bus of Vixen, do you go, oh, ma do go see, oh, yeah, guess, oh. Questo era il Sagittariese. Senta, la smetta con nella questa... prossima puntata ci sarà il Capricornese. No, senta, la smetta per cortesia. No, allora. Per il Capricornese parlerò in corsivo il Capricornese. No, allora ascolti, allora spieghiamo questa cosa dei segni zodiacali. Facciamo andiamo alla fonte di nella tutto questo. Nella nostra vita siamo pieni di arieti. Io sono piena di arieti, perché tu sei un ariete. Tuo padre è un ariete. Lei è sagittario. Sì, yeah! Io sto per compiere gli anni, rock and roll. Il 19 novembre, no. Che sì, novembre? Il 19 dicembre. Grazie, scusi mascotte, però adesso che... Oh, santa pace, aia! Non sa neanche il mio giorno di nascita. Non si può, avere a che fare con della gente così qua in studio. Lei quando è nata, scusi mascotte? 31 marzo. Ah, il suo se lo ricorda, capito? Però non mi ricordo se il 31 marzo sono nata oppure non lo faccio il 31 marzo, il compleanno. E secondo me era vicino Irnia e... Smetta di parlare quella lingua ignorante. Ma è capricornese è questo. Ma cos'ha la mascotte ora oggi? Ora vi farò vedere come si traduce il capricornese in corsivo. Capricornese, capatamose, cutta. Questa la taglio. Yeah. La taglio, mascotte, la taglio questa, la taglio. Feliz Navidad! Ragazzi, in clima prenatalizio non si poteva fare diversamente. Feliz Navidad, quindi la mascotte... Dov'è la mascotte? Sparita di nuovo. Ah, non può essere andata lontana perché è ora di pranzo, quindi la mascotte quando è ora di pranzo ed è a casa, che non è a scuola, sicuramente appare. Niente, vi dico una cosa importante, perché la mostra Suoni, colori e ritmi delle percussioni, signore e signori, è stata prolungata fino al 17 gennaio 2024. Forse ve l'avevamo già detto, ma chissà, intanto ve lo ridiciamo. Ci sono un sacco di eventi, c'è un concerto a sorpresa il 15 gennaio, abbiamo laboratori, abbiamo lezioni, abbiamo apparizioni di personaggi di un certo spessore, diciamo, ma un sacco di divertimento e tutti pronti a suonare insieme gli strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo. Quindi per informazioni, prenotazioni e quant'altro, scrivete alla mail info@agendaproduzioni.it. Cosa stai facendo in questa magione? Che vuol dire magione? Casa! Magione vuol dire casa! Sto ammagnando! Ah, stai a magnà! E allora, visto che stiamo a magnà, diciamo a tutti cosa magniamo! Il pesciolino con i capperi, i pomodorini e le olive, fatto da chissà chi! E chissà chi mangia il pesciolino dopo averlo cucinato insieme alla mascotte, perché il pesciolino fa benino e ci piace mangiarlo a pranzo. Mangiarlo a pranzo. Perfetto, mascotte. Dopo questa, secondo me, possiamo chiudere questa trasmissione. Salutiamo il nostro gentile pubblico ascoltatore. Il pesciolino ha un contornino di rucolina. Ti piace la rucolina? Yes, and you for me! Mi ha buttato via così una solo sulla rucolina. Allora, salutiamo. Bye bye! Oh, beh, bye bye, salutiamo ciao, il nostro... Ciao, ciao, bye bye, sì. Sì, vabbè, mascotte, ciao, Salutiamo il nostro pubblico ascoltatore, ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao! Bau! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha la